Dunque, sulle modalità del 9, credo che adesso, allora, i ragionamenti che abbiamo fatto questa sera sono ragionamenti infieri, nel senso che non possono trovare uno sbocco nel 9, questo è ovvio. Credo che noi abbiamo di fronte un periodo interessante da questo punto di vista, nel senso che non abbiamo, diciamo, abbiamo la possibilità di mettere in moto un processo e un cammino, no? con abbastanza tempo, che è raro, perché di solito le scadenze di movimento sono sempre state anche come reazione a tutta una serie di eventi che ci hanno imposto un calendario. Io personalmente, questo è un'opinione del tutto personale, non so quanto possa essere condivisa, eccetera, però penso che dovremmo iniziare a essere coscienti del fatto che si può mettere in moto un percorso, un cammino che fa sì che quella che attualmente è la precarietà, oggi, insomma, per dire con uno slogan, la precarietà è una condizione. Una condizione che viene vissuta soggettivamente in maniera differenziata. Non è ancora, questa è la mia opinione, una condizione che si è tramutata in una capacità di espressione di soggettività politiche, eccetera. Non c'è stato ancora questo passaggio. Io mi auguro che avvenga quanto prima, però non a caso parliamo di soggettivazione. Cioè attivare soggettività vuol dire attivare le soggettività, perché le soggettività che si manifestano nella condizione precaria non sono ancora attivate o sono attivate solo parzialmente. Può capitare, è come una pentola che bolle, che ci sono delle bolle. Il CPE francese in realtà è stata una manifestazione di soggettività che ha ottenuto un risultato nella specifica lotta che è stata in corso, però poi, finita questa lotta, non credo che in Francia la situazione sia molto migliorata a rispetto. Sì, sono stati messi dei paletti, però è facile questi paletti nei prossimi 2 anni, o un anno, quello che è, con l'evoluzione politica in corso, rischiano anche di naufragare, il che non vuol dire, non significa che la lotta del CPE non è stata vana, tutt'altro. La lotta del CPE è stata interessante perché ha fatto sì che si manifestasse queste soggettività e magari trovasse dello sbocco in quello che prima diceva Cristina, per cui persino un sindacato abbastanza, diciamo, tradizionale come la CGT, no, si è posto il problema di un intervento, un neoproposto con tutti i limiti che può avere, quella della Sécurité sociale professionnelle, che è una proposta di welfare, ma è una proposta di welfare che va a incidere sulle condizioni di lavoro, cosa che manca totalmente in Italia. E anche le proposte di reddito di esistenza o di opzione o di cose del genere non sono in grado, se ne rimangono enunciati puramente teorici, se non sono calate all'interno di un percorso di soggettivazione, no? Che è il problema che noi abbiamo. Allora, noi siamo ancora in una situazione in cui la condizione precaria è una condizione. E il fatto di essere condizione, magari anche che è in grado di esprimersi attraverso la media come forma di visibilità e di autorappresentanza, finché questa condizione non riesce a tramutarsi in un movimento di soggetti coscienti e consapevoli e quindi in grado di dotarsi degli strumenti di azione e delle rivendicazioni più o meno condivise, ma che almeno segnano un tracciato, noi saremo di fronte a una situazione in cui ci possono essere delle conflittualità che nascono in alcuni segmenti di lavoro, magari nel caso Vodafone per i 914 esternalizzati, piuttosto che il caso di qualche altra parte, ma non riescono a fare essere connesse. Quindi il nostro compito, credo, non è quello di fare le avanguardie. Il nostro compito è di offrire, fare un'attività di servizio, di offrire degli elementi su cui, o scommettere su alcuni elementi, che possono in grado di far sì che la condizione attualmente vissuta da milioni di persone si traduca in un'operatività soggettiva, sia in grado di soggettivarsi. Questo è un discorso che credo, è un processo che credo che non possa venire dall'oggi al domani. È un processo in corso, ci vorrà del tempo, come sempre la storia ci ha dimostrato che è necessario che ciò avvenga. Non è neanche detto che ciò possa avvenire, però questa è la scommessa su cui noi puntiamo. E credo che su questo, nelle diversità delle posizioni, nelle diversità di analisi, eccetera, è questo che deve accomunare una posizione di autonomia, in questo senso, che è l'autonomia della cooperazione sociale. Il termine cooperazione sociale è un termine che riempie tutto, ma è vuoto, perché è un qualcosa che copre, è un coperchio, poi dentro la pentola bisogna vedere che cazzo c'è in questa cooperazione sociale. La cooperazione sociale in realtà prende le forme più disparate, può prendere forme anche di destra, cioè vediamo il caso di Grillo, vediamo tante cose, voglio dire, tante manifestazioni, queste eccedenze non siamo in grado di controllarla, e questo è un bene, perché se fossimo in grado di controllarla come sotto forma di avanguardia sarebbe peggio, per fortuna che non c'è. Però vediamo un po', la scommessa nostra è quella di mettere in moto, e quindi bisogna stare molto attenti nel trovare le forme di, io ritengo fondamentale, non è un aspetto formale, ma è sostanziale, l'aspetto della comunicazione, l'aspetto dei linguaggi, l'aspetto degli immaginari, che sono poi gli immaginari e i desideri, l'immaginario non è il suo corrispondente ai desideri, perché se l'immaginario che non siamo in grado di creare, con l'evento pratico, ma anche con la produzione puramente virtuale, quindi non materiali, riescono a essere immaginari che vanno a intercettare quelli che sono i desideri, allora noi sì che riusciamo a far sì che la condizione della precarietà diventi soggetto attivo e non passivo. E non basta soltanto l'immaginario, non basta soltanto la comunicazione, non basta soltanto i linguaggi, che rispetto ai quali dobbiamo fare un'analisi critica, perché siamo tutti imbevuti di schematismi comunque che ovviamente derivano dal passato, non è che nessuno di noi è un genio, no? Però dobbiamo essere sempre molto attenti rispetto alle forme con cui ci comunichiamo e ci manifestiamo all'esterno. E questo è, lo chiamo un'attenzione a quello che succede. Per cui attenzione al 20 ottobre che ci manda dei segnali, attenzione a Grillo che ci manda dei segnali, e noi dobbiamo essere in grado di captare questi segnali e leggerli come, e interpretarli e comunicare con questi segnali in forma, e quindi dobbiamo uscire da determinati schematismi predeterminati che sono anche comodi, che ci danno sicurezza. Dobbiamo rischiare, dobbiamo fare un elemento di rischio, anche uscire da forme auto-identitarie che sono consolatrici ma sono anche castranti da questo punto di vista. Riguardo al 9 è chiaro che non c'è il tempo, non c'è la discussione, non c'è la possibilità, per cui è chiaro che il 9 si manifesterà in una manifestazione. Io sognerei, personalmente sognerei una forma di lotta che non si esplica in una manifestazione, che si esplica in qualche altro modo, non so dire quale, ma che trova delle forme di espressione diverse dalla manifestazione. Anche perché non è piena il pane della manifestazione, ma no? Ma è chiaro che almeno se avesse fatto una manifestazione che non sia fatta come lo sciopero di un anno fa, con una cosa tristissima, che abbia delle forme di espressione, di comunicazione, che vada a giocare sul simbolico e sull'immaginare. E devo dire che una cosa che non manca al movimento è la creatività, perché usiamo, ragazzi, troviamo le forme, ognuno si immagina nella variabilità e nella differenza, ma qualsiasi forma creativa ben venga, cioè che sia in grado, quindi con la comunicazione delle forme di comunicazione, di linguaggi, di manifestazioni. Non facciamo una manifestazione, facciamo una parade, facciamo un qualcosa, non lo so, guarda, poi sono negato su queste cose, per cui non dico niente e lascio fare agli altri, cioè nel senso che per me va bene tutto, ma non so, per il 9 magari, il 9 a Milano vorremmo e stiamo spingendo perché il manifesto del 9 sia un manifesto colorato innanzitutto. Ma sono cose banali, eh? Sono cose banali. Vabbè, ma il manifesto che era stato potenzialmente era in grigio con la solita in foto di lotta col pugno chiuso, eccetera, no? Ma non perché questo non vada bene, ma perché tu devi trovare delle forme di espressione immediata, no? Essere colorato, poche parole, chiare, precise, modalità di stare in piazza che abbia una capacità comunicativa, che non sia la solita forma tradizionale, insomma, tutte ste cagate qua, per intenderci. Questo è quello che uno cerca di fare. Poi, ovviamente, all'interno del percorso, e considerando che tutte le forme di gruppi, sindacati di base, realtà più o meno organizzate che si muovono sulla questione del lavoro, ha uno spettro e una variabilità talmente elevata che per forza deve scendere a compromesso. Questo, il compromesso è connaturato con l'essere umano, anche se uno si può essere autonomo quanto vuole, ma